Il terzo anello, ad alta voce. Francesco Siciliano legge Con gli occhi chiusi, di Federigo Tozzi. La diligenza arrivò. Dentro c'era una donna e un contadino dalla faccia smunta e la barba non rasata. Un malato che la moglie aveva ripreso dall'ospedale. Egli reggeva accanto a sé un fazzoletto rosso pieno di medicine. La moglie teneva sulle ginocchia uno scialle bigio che gli avrebbe messo la sera. L'uomo aveva gli occhi velati e pareva che si trovasse a disagio, come se avesse voluto che la diligenza non si fermasse, aspettandosi una cosa che li avrebbe disturbati. Pietro aprì lo sportello della carrozza, sulla quale era dipinto lo stemma postale. Ghisola salì a capo basso. Poi fece comprendere che voleva essere baciata e Pietro la baciò. Ma le avrebbe detto: «Non sta bene qui». E la sorrise a se stessa di lui, mentre la diligenza si muoveva. Dopo aver dato un'occhiata ai due che le sedevano dinanzi, come se prima non se ne fosse nemmeno accorta, abbassò un'altra volta il capo e impallidì. Aveva sentito una trafitta della maternità. Pietro, con un'angoscia quasi mortale, aspettò invano che si volgesse. Verso settembre andò a trovarla a Radda. Questo paese, il cui mucchio di case si continua a vedere prima di arrivarci per parecchi chilometri in fondo a un bosco, in cima a una collinetta, è così silenzioso che si ode parlare dentro le case della via. Pietro era andato fino alla Castellina con la vettura di un suo conoscente che lo avrebbe atteso la sera per riportarlo a Siena. Di lì, a Radda, andò a piedi. Quando giunse al paese, stanco e irritato, aveva un'esaltazione che di quando in quando diminuiva, e allora le cose avverse gli si affacciavano all'anima. Sapeva che il padre l'avrebbe maltrattato e che quasi tutti avrebbero pensato che gli andasse a trovare Ghisola perché gli si dava. Dopo le prime case, lasciò passare avanti una carrozza così polverosa che era diventata bianca. Ad una donna che scortolo non gli aveva più tolto gli occhi di dosso, mentre la sua brocca sotto il rocchio di una fontana traboccava, domandò di Ghisola e seppe che stava in casa di Lucia, la sorella maggiore che s'era maritata. Si fece indicare l'uscio e, trovatolo aperto, entrò, ma ridiscese per bussare. Già altre tre donne nella stradicciola s'erano adunate per la curiosità di sapere chi fosse, e allora, per sottrarsi ai loro sguardi, salì senza attendere che gli fosse risposto. Lucia, che l'aveva una volta conosciuto a Poggiameli, gli andò incontro in cima alle scale, ed egli, senza nemmeno salutarla, domandò: «Ghisola, dov'è?» Se Lucia non fosse stata la sorella, si sarebbe adirato, perché subito, quasi non sapesse niente del bene che le voleva, non gliel'aveva già detto. Allora Lucia, visto il suo desiderio, rispose: «È di sopra?» Egli le disse con collera: «Chiamala, anzi, la chiamo io!» Ma Ghisola si fece innanzi da sé, dopo aver prima sentito le sue parole. In pochi giorni s'era fatta più bruna e aveva una sottana sdrucita che toccava il pavimento. E siccome ambedue se ne stavano in silenzio a guardarsi, Lucia tornò in cucina a far da mangiare. «Perché non sei a casa dei tuoi genitori?» Ella lo guardò ancora senza rispondere. Poi gli chiese con una meraviglia sincera: «Mi vuoi sempre bene?» Ma egli si inquietò e disse: «Perché mi chiedi così? Perché non ti dovrei amare?» E fece l'atto di torcerle un polso. Ella, con gli occhi fissi a terra, lo lasciò fare senza curarsene. «Tu non devi stare con questa veste, se ti vede qualcuno!» E ripeté, per sapere come ella rispondesse: «Se ti vede qualcuno!» E siccome Ghisola taceva come offesa, Pietro se ne pentì, come quando si è percosso un animale e poi ci si accorge che si è fatto senza ragione. «Ti si vedono le gambe, la sottana è anche aperta!» Quelle parole, che non avrebbe voluto dire, lo facevano quasi piangere, e per evitare la tentazione sensuale le prese un braccio spingendolo nella sua stanza. Ghisola si trasse indietro perché la lasciasse, allora la veste finì di rompersi ed egli le vide un fianco e la arrossì. Egli le nascose il volto abbracciandola perché non si vergognasse di lui. Ghisola si volse verso di lui con un atto lento e pudico, quasi avesse temuto di concedere troppo. Poi, quando furono per baciarsi, si ritrasse. Pietro le alzò il volto piegato in giù con forza, con tutta la sua volontà, e le disse: «Non piangere!» Egli temeva di vedere quel tremolio interno delle labbra, per cui sembra che il pianto giunga come una sorgente profonda. Tenendole ancora le mani sopra le tempie, disse più remissivo, quasi raccomandandosi con disperazione: «Ascolta!» Ella lo guardò. «Forse non vuoi essere più la mia sposa?» Ella lo guardò ancora. Poi, come gli riusciva bene, fece l'atto di inghiottire le lacrime, e perché non pianse gli parve così buona da commuoverlo. Allora s'abbassò e le baciò tutta la gola. L'obbligò a guardarlo, affascinandosi degli occhi. «Perché dovresti aver bisogno di tradirmi?» E disse la frase con la gola strozzata dalla repugnanza, con tutta la sua avversione morale. Ella, al sospetto, tacque. Pietro allora le riprese il volto con ambedue le mani, il suo volto rigido come la selce. Glielo piegò in modo che ella dovette guardarlo. Si torceva come il ramarro quando svolta e fugge. «Tu hai pensato di non farti vedere più?» Ella gli disse che aveva indovinato. Svicolò le mani dalle sue, gli volse le spalle. Egli l'esaminò così a lungo impacciato, ma ella, avendo paura che egli fosse capace di vendicarsi, gli si fece docile e gli sorrise. Egli la abbracciò e la baciò. Ed ella gli disse: «Ma tu non ami proprio me». Egli non comprese e si abbatté su di lei, chiedendole: «Perché dici sempre così?» Gli venne il sudore freddo, ma procurò di calmarsi, accarezzandola e dicendole: «Non amo te, dunque». Allora ella disse con calma, senza nessun sentimento: «Tu sposerai un'altra». Egli impallidì, ma ebbe la forza di fare alcuni passi verso l'uscio. Ghisola allora gridò per offenderlo: «Mi vuoi bene così?» Per prima gli offrì la bocca. Egli esitò. Poi lasciò venire a sé tutta quella sensazione che lo ubriacava, e Ghisola, che voleva darglisi per fargli credere poi di essere restata incinta, gli chiese: «Perché m'accarezzavi dianzi?» Pietro non glielo voleva dire, ma Ghisola esclamò: «Lo so, ho indovinato. Ora mi accarezzi in un altro modo. Anche tu mi desideri. È impossibile che tu possa farne a meno. Del resto, se tu vuoi, io sono tua». Ma Lucia chiamò dalla cucina e mangiarono tutti e tre insieme. Il marito della sorella era fuori di radda. 2 ore dopo mezzogiorno, Pietro doveva già pensare a tornarsene via e lo disse a Ghisola. Ma ella, che se n'era dimenticata, esclamò tutta allegra: «Dormi in casa nostra. Mio padre m'aspetta. Tu sai che diventerebbe più cattivo anche contro di te». Ghisola insisté: «Dormi qui, io verrò a baciarti come feci l'altra volta a Siena». Egli temette allora che avrebbero anche potuto dormire insieme e rifiutò. Ghisola, indovinandolo, chiese: «Ci stiamo insieme di giorno, senza far niente di male?» E con un'aria innocente disse: «Ti giuro che tu mi rispetterai, perché tu non vuoi. No, prima devi essere la mia sposa. Sono io stesso che te lo dico, perché ti voglio bene». Ma ella, con la carne imbevuta di voluttà come una spugna d'olio, entrò in un'altra stanza, chiudendosi l'uscio dietro. Ricomparve quasi subito, mentre egli non sapeva più se aspettarla o andarsene. Egli le disse con una voce quasi piagnucolosa, imitando la sua: «Staremo insieme in seguito. Ora facciamo questo sacrificio. Dobbiamo». L'amore di Pietro era stato per Ghisola il ritorno della coscienza. Ella sentiva che doveva ingannarlo perché egli non la umiliasse. Più grande e folle era quell'amore, e più ella si trovava nella necessità di difendersi, non perché lo desiderasse o perché volesse riabilitarsi, ma perché doveva impedire che Pietro sapesse tutto. voleva essere la più forte, facendosi accettare com'era, per sentire anche lui in quella colpevolezza morale che ella non aveva saputo respingere. Se dopo partorito fosse riuscita a farsi sposare, era sicura di avere un sopravvento assoluto sul suo carattere, era certa di fargli credere quel che voleva. Ma in fondo si stimava molto migliore e più desiderabile di quando era soltanto una contadina sciocca e vestita male. Si sentiva anche più intelligente, più astuta, e l'orgoglio non le permetteva di riconoscere la delusione dolorosa che avrebbe provato Pietro. Ella voleva approfittarsi di lui, soltanto perché era abbastanza ricco e poteva toglierla dalla sua condizione sempre malsicura. Aveva timore di invecchiare prima d'aver trovato un vero affetto, e perciò l'ostilità contro l'esigenza di Pietro, che si fosse conservata onesta, diventava quasi odio quando aveva paura d'essere scoperta. Sentiva che anche l'ingenuità di lui era un contrasto serio, ed ogni giorno più si sentiva mancare il terreno, perché Pietro era sempre lo stesso, pronto con la sua adorazione ad offenderla, senza che egli se ne avvedesse. Lo considerava egoista, giustamente da un certo punto, perché non l'avrebbe mai scusata se fosse trapelato qualche cosa. Doveva dunque non essere contenta che egli l'amasse in quel modo. Ma per rifarsi della continua umiliazione non pensava affatto di cambiare vita finché non ci fosse costretta. Sentiva solo una specie di rimorso che le faceva simpatico Pietro. È vero, però, che non pensò mai che avrebbe dovuto fin dal primo giorno parlargli più chiaro finché avesse capito. Pensò invece che non l'aveva ingannato fino al punto da dargli a intendere che era incinta per colpa sua. Ma aveva anche da vendicarsi con Domenico. Far perdere così la testa al suo figliolo era un piacere maligno. Inoltre, la pretesa di Pietro la faceva ridere come un'insipida sciocchezza che un giovane non avrebbe nemmeno dovuto avere. Ma che andava cercando? Perché dunque amava lei e non qualche signorina di Siena, una signorina della sua condizione? È vero però che ella se ne teneva per i suoi nonni e per tutti gli altri parenti. Era capace di diventare una signora e di vivere senza lavorare. Quindi dovevano tenerla molto in conto. E poi ella non aveva fatto niente per piacere in quel modo a Pietro e perché egli si ricordasse di lei. Domenico, dunque, doveva stare zitto. Era piuttosto il figliuolo che s'approfittava di lei, perché era stata la loro assalariata. Era lei che doveva fidarsi del suo figliuolo. E nello stesso tempo ricordava molte cose del tempo che era stata a Poggiomeli. Ci s'era affezionata. Le piaceva di sentire i complimenti che le assalariate le facevano. Complimenti, è vero, un poco ambigui, perché le lasciavano capire che non avevano per lei la fiducia di Pietro e nemmeno quella compiacente di Giacco e Masa. A Radda i suoi genitori non avevano osato dirle niente, perché ella, la prima sera, entrando in casa, disse che sarebbe tornata via subito e che a loro non doveva importare niente delle chiacchiere sentite sul suo conto, anche perché non erano vere. Ma gli stessi suoi genitori se ne tenevano che fosse vestita meglio perfino della figliuola del sindaco, che era ricchissimo. Le sorelle ne sentivano invidia e dentro di sé dicevano che era molto più furba di loro. Ma siccome le volevano bene, i parenti erano i primi a difenderla. Borio era morto d'una polmonite e quel fattore suo rivale s'era fatto vecchio anzitempo, e a Ghisola, quando la vide due o tre volte, dette di lei, arrossendo e levandosi il cappello. Anche in paese non la giudicarono troppo male, e del resto si sparse subito la voce che doveva sposare il figliuolo del padrone del Pesce Azzurro. Tutti si ricordavano del tempo passato, ma ci ridevano senza cattive intenzioni, trovando perfino che era sempre stata una buona ragazza, benché avesse dato qualche scandalo, e poi portavano rispetto ai suoi genitori piuttosto poveri. Ma Ghisola, dopo che l'amico di Badia Ripoli l'aveva lasciata, sentì una certa paura di se stessa. Ora Ghisola doveva guadagnare giorno per giorno, ma più affondava e si corrompeva nella sua vita, e più era in grado d'apprezzare Pietro, appunto perché si sentiva addirittura incapace d'essere almeno un'ora come voleva lui. Perciò gliene importava sempre meno, e non aveva più quel disagio morale che le dava fastidio i primi mesi. Era ormai a quel modo, e ogni giorno ci si rassegnava sempre di più, anche perché era inutile smettere. Le lettere di Pietro le facevano l'effetto che egli le pensasse per qualche fidanzata ingenua e buona, e lo compativa sorridendo. A settembre egli tornò a Firenze, con il pretesto degli esami di riparazione, quantunque si dolesse di perdere il tempo inevitabilmente, trovando giusto come un castigo di star lontano dai suoi libri, dai suoi compagni, che non lo salutavano nemmeno più. Gli faceva l'effetto di nascondersi e di compromettersi verso tutti. Ma quella volontà di inabissarsi, che nasceva da un'angoscia, gli faceva gonfiare il cuore. Il cuore gli batteva in un altro modo. Dalla sua casa di via Cimabue non usciva ormai che per mangiare, ma non gli era possibile altrimenti, sebbene gliene rincrescesse e fosse tentato di vincersi. Ghisola, già a Firenze prima di lui, stava in una di quelle case che si chiamano private, dove guadagnava molto bene. E informata da una lettera di Pietro respinta da Radda, andò subito da lui, anche per allontanare qualunque sospetto. Quando la padrona che l'aveva fatta passare si mosse per chiamarlo, ella fece cenno di no, e camminando senza farsi udire, batté con la punta delle dita la porta della camera. Egli, indovinando che era lei, balzò in piedi ed aprì. Ghisola finse di non voler entrare e gliela portò dentro. E la baciò tremando tutto. Ella disse, sorridendo e schermendosi, «Non voglio più». Poi si sedé, dopo essersi tolto il cappello che mise sulle ginocchia. Ma egli ebbe un tuffo caldo al cuore e sentì arrossarsi la faccia perché non poté fare a meno di chiederle «Perché eri già venuta via da Radda senza avermelo scritto?» Ed ella, con il suo bel viso che talvolta pigliava una purezza assoluta, rispose senza badare a quel che diceva: «Sono arrivata ora. Ha voluto per forza che tornassi la mia padrona di badia a Ripoli. E a Radda non ho potuto a nessuno dettare la lettera per te perché non volevo far sapere che ci vediamo. Non ho agito bene?» «Tanto. Ti riprende lei dunque?» «Sì?» «Allora sono contento. Ma non puoi almeno per oggi restare con me? Ho già pensato a chiederle il permesso.» Egli, credendole, l'abbracciò in un impeto di riconoscenza. Escirono subito insieme e andarono a spasso per Firenze. Mangiarono e poi si trattennero a parlarsi in uno di quei sedili del giardinetto di Piazza San Marco, dove vendono i brigidini e i semi di zucca ai soldati e agli oziosi. La sera ella gli disse, ridendo: «Devo andarmene, perché se faccio troppo tardi, un'altra volta non mi lascerebbero libera.» E si lasciarono. Egli non pensò nemmeno di curarsi dove andava. L'attese 3 giorni sempre chiuso in casa, immaginandosi di confidarle tutto degli esami, e non sapeva se a Ghisola gliene importasse o no. E questo proposito gli dava un godimento quasi voluttuoso. Gli erano insopportabili i rumori, anche lievi, trovando rimedio nel lasciarsi assopire sul letto. E allora gli pareva che le tempie battessero con meno fatica e che il cuore gli si gonfiasse senza che gli ne sentisse la gonfiezza. Ma le sue mani fredde gli facevano un senso di pena e di paura, ricordandogli la sua vita a Siena. Se non avesse temuto di far dispiacere a Ghisola, l'avrebbe pregata, con tutta la dolcezza che ne provava, ad uccidersi con lui. Ma quando Ghisola tornò a trovarlo, tutto cambiò. L'avrebbe trattato da pazzo, ridendogli in faccia con quel suo riso di cui egli aveva spavento, benché la facesse più bella. Stettero insieme un altro giorno intero, come l'altra volta, e poi non si videro più. Francesco Siciliano ha letto Con gli occhi chiusi di Federigo Tozzi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it.